fece delle traverse in legno d'acacia, 5 per le assi di un lato della dimora, 5 traverse per le assi del secondo lato della dimora e 5 traverse per le assi del lato posteriore della dimora, verso occidente. Fece la traversa di centro che passava in mezzo alle assi da una estremità all'altra. Ricoprì d'oro le assi e fece anelli d'oro per inserirvi le traverse e ricoprì d'oro le traverse. Fece un velo di porpora viola, porpora rossa, di scarlatto e bisso ritorto. Lo fece artisticamente con cherubini. Gli fece 4 colonne d'acacia, le ricoprì d'oro, con i loro uncini d'oro, e fuse per esse 4 basi d'argento. All'ingresso della tenda fece una cortina di porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto con lavoro di ricamatore, e 5 colonne con i loro uncini, e ricoprì d'oro la loro cima e le loro aste trasversali, e fece le loro 5 basi di bronzo.